Quel Natale un altro peso gravò. Ho già detto che Dewsbury Moor era situato in un umido fondovalle e lei sapeva che l'aria che vi si respirava non era confacente alla sua costituzione, anche se non si rendeva veramente conto quanto il vivere in quel luogo le fosse dannoso. Anche Anna aveva incominciato a soffrirne poco prima delle vacanze di Natale. Charlotte vigilava sulle sorelle minori con la gelosa attenzione con cui le creature selvatiche vegliano sui loro piccoli, giungendo perfino a cambiare il comportamento che è loro naturale se qualcosa li minaccia dall'esterno. Anna aveva preso una leggera tosse, accusava un dolore al fianco, respirava con difficoltà. Miss Wooler aveva considerato quei sintomi poco più di quelli di un normale raffreddore, ma Charlotte vi scorse le prime avvisaglie di una tisi incipiente. Fu per lei come una pugnalata al cuore mentre ricordava Maria ed Elizabeth, le sorelle maggiori, e pensava al posto ormai vuoto per sempre che avevano occupato nella canonica. Spinta dall'ansietà per la sorellina, aveva rimproverato aspramente Miss Fuller per quella che a lei sembrava indifferenza. Miss Fuller, risentita, aveva scritto a Mr. Bronte. Le ragazze, immediatamente richiamate a casa, avevano lasciato Dewsbury l'indomani stesso, Charlotte col fermo proposito che né Anna come alunna né lei come insegnante vi sarebbero ritornate. Miss Fuller, prima della loro partenza, aveva però cercato l'opportunità di una spiegazione e siccome i malintesi tra amici fedeli finiscono col consolidarsi dell'affetto, quello fu l'unico dissenso che Charlotte ebbe con la buona e gentile Miss Fuller. Tuttavia, la certezza di quanto fosse delicata la salute di Anne le si era conficcata come una spina nel cuore. Durante tutto l'inverno la vigilò con un'inquieta, amorevole ansietà, piena di improvvisi sussulti di paura. Miss Fuller l'aveva supplicata di tornare dopo le vacanze di Natale, ottenendone il consenso. Emily invece aveva rinunciato al posto che occupava nella scuola di Halifax dopo 6 mesi di ardui tentativi a causa della sua salute, che ora stava recuperando grazie alla tonificante aria della brughiera e alla libera vita domestica. Dubito che a quel tempo Bronwell fosse in grado di provvedere a se stesso. Per non si sa quale motivo, aveva rinunciato all'idea di entrare alla Royal Academy per studiare seriamente pittura e per il suo incertissimo futuro non si intravedeva ancora uno sbocco. Toccò a Charlotte tornare quietamente al suo destino di insegnante, rassegnandosi alla vita monotona che le imponeva. Cuore valoroso, pronto a cadere sotto la fatica. Riprese il lavoro senza un lamento, sperando di prevalere con la volontà sulla debolezza che a poco si accentuava, ma incominciarono a torturarla, improvvisi conati di vomito. Prese a tremare a ogni rumore improvviso. Solamente con grande difficoltà riusciva a reprimere le grida se qualcosa la faceva trasalire. E in una persona dotata dell'autocontrollo che le era proprio, questi sintomi denunciavano uno stato di grave indebolimento. Il medico, che grazie alle insistenze di Miss Fuller si decise a consultare, le consigliò di tornare a casa. La vita che attualmente conduceva era troppo sedentaria, la tiepida aria estiva che si respirava alla canonica, la dolce compagnia dei suoi cari le erano necessarie se voleva salvare la ragione e perfino la vita. E siccome era uno tanto più grande di lei che dall'alto la comandava di non insistere nello sforzo, fece ritorno a Haworth, dove, dopo un periodo di completo riposo, il padre le procurò la tonificante compagnia delle care amiche Mary e Martha. Alla fine della lettera che intendo trascrivere qui sotto è descritto, come meglio non si potrebbe, un allegro gruppo giovanile. Come tante altre descrizioni, dal vero anche questa ci procura una profonda tristezza perché sappiamo che quelle creature allora così piene di vita oggi sono cancellate dalla morte. Haworth, 9 giugno 1838. Ho ricevuto mercoledì il pacchetto dei tuoi dispacci. Mi è stato portato da Mary e da Martha che si tratterranno a Haworth per alcuni giorni. Ci lasceranno oggi. Sarai sorpresa leggendo la data di questa lettera. Dovrei essere a Dewsbury Moor, come sai. Vi sono rimasta finché ce l'ho fatta, ma alla fine non ho potuto, non ho osato restarvi più a lungo. La salute e l'equilibrio interiore mi erano venuti completamente meno e il medico consultato mi ha imposto, se davo valore alla vita, di tornare a casa. Così a casa me ne sono venuta e il cambiamento di ambiente mi ha tonificata e calmata ed eccomi, a quanto spero, sulla buona via di una completa guarigione. Una mente calma ed equilibrata quale la tua non può immaginare quali siano stati i sentimenti della scombinata, sciagurata creatura che ti sta scrivendo quando, dopo settimane e settimane di indescrivibile angoscia fisica e mentale, l'alba di una relativa pace è sorta per lei. Mary sta tutt'altro che bene, ha il fiato corto, dolori al petto e frequenti rialzi di temperatura. Non so dire quale agonia mentale mi procurino questi sintomi che mi ricordano al vivo le mie due sorelle maggiori, che nessuna scienza medica riuscì a salvare. Marta invece ora sta benissimo. Da quando è arrivata è stata una fonte continua di buon umore e ha esercitato un grande fascino. Stanno facendo un tale rumore intorno a me che non riesco a scrivere altro. Mary suona il piano, Marta chiacchiera con tutta la velocità di cui la sua linguetta è capace. Bronwell le tiene testa ridendo della sua vivacità. La salute di Charlotte migliorò e si rafforzò molto durante quel felice e tranquillo momento trascorso a casa. Fece alcuni brevi soggiorni dalle sue grandi amiche ed esse a loro volta vennero ripetutamente a Haworth. Penso che fu in casa delle une o dell'altra che incontrò la persona della quale facenno nella lettera che segue, qualcuno in cui si nota una vaga somiglianza col St. John che incontriamo nell'ultimo volume di Jane Eyre e che, come questi, esercitava la professione ecclesiastica. 12 marzo 1839. Mi sentivo ben disposta nei suoi confronti perché è un uomo gentile, d'indole buona. Tuttavia, non riscontrai in me e non potrei avervi riscontrato quell'intenso attaccamento che mi avrebbe disposta a morire volentieri per lui. E se mai dovessi sposarmi, dovrò essere in grado di circondare mio marito con questo alone di adorazione. 10 contro 1. Non mi si presenterà mai più un'opportunità come quella, ma n'importe. Inoltre, egli sa così poco di me che non ha certo potuto rendersi conto di chi fosse veramente quella a cui scriveva. Ma pensaci, se mi potesse vedere quale sono realmente nella vita quotidiana, nel mio ambiente domestico, ah, resterebbe a bocca aperta, mi giudicherebbe una creatura sfrenata, romantica, entusiasta. Non sarei capace di starmene tutto il giorno seduta davanti a mio marito, col viso improntato a gravità. Riderei, lo prenderei in giro, direi, senza riflettere, la prima cosa che mi venisse in mente. E se lui fosse un uomo intelligente e mi amasse, il mondo intero pesato sulla bilancia contro un suo minimo desiderio equivarrebbe per me a un soffio d'aria. Così quella proposta di matrimonio, la prima della sua vita, fu tranquillamente scartata. Il matrimonio non entrava nei suoi progetti, mentre ne faceva parte la speranza di un buon lavoro solido e onesto. Il problema consisteva nello scegliere la direzione in cui incanalare le sue capacità. L'avevano scoraggiata dall'entrare nell'arengo della letteratura, la vista soffriva quando tentava il disegno minuto per esprimere con quello una qualche idea, l'insegnamento le sembrava, come in ogni tempo è sembrato alla maggior parte delle donne, il miglior mezzo per guadagnarsi di che vivere. Ma, come pure le sue sorelle, non amava i bambini. I geroglifici di un cervello infantile costituivano per loro un linguaggio incomprensibile perché fino a quel momento non si erano mai trovate a contatto con esseri più giovani di loro. Sono inoltre incline a pensare che sia loro mancato quel dono istintivo di impartire informazioni che è del tutto indipendente dalla capacità di registrarle mentalmente. Mancava loro quel tatto innato che permette di percepire le difficoltà incontrate da una mente infantile ancora troppo nebulosa e vaga per avere la capacità di afferrare certi concetti e per l'incompleta padronanza del linguaggio, incapace di esprimere a parole le difficoltà che le si presentano. Perciò l'insegnare ai bambini era tutt'altra cosa di un piacevolissimo compito per le sorelle Bronte. Con ragazze più avanti negli anni, sull'orlo della maturità, sarebbero forse riuscite meglio, specialmente se queste avessero collaborato, ma l'educazione che quelle figlie di un ecclesiastico di provincia avevano ricevuto non le metteva in grado di accettare la responsabilità di alunne che aspirassero a un alto livello culturale. Avevano qualche elementare nozione di francese, nessuna capacità musicale. Anzi, dubito che Charlotte sapesse premere un solo tasto giusto, ma tutte e tre erano nuovamente in buona salute, perciò Charlotte e Anne dovevano rimettersi al lavoro. Una di loro era necessaria in casa per prendersi cura di Mr. Bronte e di Miss Bronwell, quale membro giovane e attivo in una casa che accoglieva quattro persone, tre delle quali, il padre, la zia e la fedele domestica Tabby, Avevano oltrepassato il limite della mezz'età. Emily, che lontana da Haworth soffriva e languiva, fu la prescelta e Anne fu la prima che trovò un impiego. 15 aprile 1839. Non ho potuto scriverti nella settimana da te indicatami perché in quel periodo siamo state impegnatissime nei preparativi per la partenza di Anne. Povera figliola, ci ha lasciate il lunedì scorso, nessuno l'ha accompagnata, ha voluto andare da sola pensando di cavarsela meglio, di avere più coraggio se lasciata completamente a se stessa. Da quando è partita abbiamo già ricevuto una lettera, si dice assai soddisfatta, dice che Mrs. è estremamente gentile, le sono affidati solamente i due bambini più grandi, gli altri sono confinati nelle stanze destinate ai piccini dove lei non ha nulla da fare. Spero che tutto continui bene. Saresti sorpresissima nel leggere che lettera piena di buonsenso e di intelligenza, ella scrive. Sono preoccupata solamente per la sua scarsa parlantina e temo che Mrs. una volta o l'altra giunga alla conclusione che la ragazza sia inceppata nel parlare. Io per il momento sono ancora disoccupata, come una cameriera senza posto. A proposito, ultimamente mi sono scoperta un vero talento nel fare le pulizie, spazzare i caminetti, spolverare i mobili, rifare i letti, eccetera. Così, se qualcosa di meglio verrà a mancare, potrò accettare queste incombenze se qualcuno mi offrirà un buon salario per poco lavoro. Non farò mai la cuoca. Odio cucinare, e ancor meno la dama di compagnia, o la sarta di cappe, o la modista, o la cucitrice di grosso domicilio. Non voglio fare altro se non la cameriera. Per quel che riguarda una mia visita a G, non ho ancora ricevuto un invito, ma se dovessi essere invitata, ho deciso di rifiutare. Anche se il farlo costituirà un vero e proprio sacrificio, perché la convivenza con i T è uno dei piaceri più stimolanti fin qui conosciuti da me. Addio, mia amatissima E. PS. Cancella la parola amatissima, è una leziosaggine. A che servono le dichiarazioni? Ci conosciamo e ci vogliamo bene da lungo tempo e tanto basta. Poche settimane dopo che quelle righe erano state scritte, anche Charlotte trovò un posto di governante. Intendo attenermi strettamente alle regole che mi sono state imposte, dunque non menzionerò alcun nome di persona ancora in vita. Quando dovrò riferire spiacevoli verità o citare severe notazioni dalle lettere di Miss Bronte, ma è doveroso che le difficoltà che abbia ad affrontare una volta per volta nella vita siano sinceramente esposte e fatte conoscere affinché l'impatto di ciò a cui dovete far fronte sia pienamente capito. Una volta, parlando con lei di Agnes Grey, il romanzo in cui sua sorella Anne descrive quasi alla lettera le proprie esperienze di governante, fece un'allusione ai sassi lanciati a degli uccellini nel nido. Mi disse che chiunque non si sia trovato nella posizione di governante non sa cosa si nasconde all'ombra della cosiddetta rispettabilità. Semplicemente cedendo all'egoismo e al malumore, il comportamento del datore di lavoro verso il dipendente diventa una vera e propria tirannia di cui eticamente si preferisce essere la vittima piuttosto che l'autore. Per essere indulgenti, possiamo solamente attribuire a costui o costei piuttosto ottusità, incapacità di simpatia che non innata tendenza alla crudeltà. Tra molti esempi che ricordo bene, ne cito uno occorso a lei personalmente. Un giorno in cui i genitori andavano in gita, le era stato particolarmente raccomandato di tenere fuori dal cortile delle scuderie durante l'assenza dei genitori il ragazzino di 3 o 4 anni a lei affidato. Il fratello maggiore, ragazzo di 8-9 anni, sul quale non aveva specifica autorità, sfidò il piccino a entrare nel luogo proibito. Ella lo seguì facendo il possibile per indurlo a venir via, ma quello, istigato dall'altro, incominciò a scagliare delle pietre di cui una la colpì con tanta violenza alla tempia che i due teppistelli ebbero paura e obbedirono finalmente. Il giorno seguente, in pieno conclave familiare, la madre chiese a Miss Bronte come si fosse procurata il segno che aveva in fronte. Lei replicò solamente: «È stato un piccolo incidente, signora». Non furono fatte ulteriori domande, ma i due ragazzini e le sorelle che avevano visto tutto la rispettarono per non aver denunciato i colpevoli. Da quel momento esercitò una buona influenza su di loro, naturalmente più o meno sensibile a seconda dei diversi caratteri, e a mano che ne otteneva l'affetto, l'interesse che provava per loro cresceva. Un giorno, durante il pranzo dei bambini, il piccolo ribelle del cortile, in uno slancio di affetto, pose la manina su quella di lei, dicendo: «Ti voglio bene, Miss Bronte». Al che la madre esclamò di fronte a tutti: «Voler bene alla governante?» Quella famiglia era, a quanto credo, quella di un ricco manifatturiero dello Yorkshire. I seguenti stralci dalle lettere che Charlotte scrisse in quel tempo mostrano quanto penosamente la costrizione del nuovo ambiente la opprimesse. Ricavo il primo da una lettera a Emily che si apre con una di quelle tenere espressioni alle quali indulgeva, nonostante la sua riprovazione delle esagerazioni, mio caro amore, mio amore bello, erano i termini abituali con cui si rivolgeva a questa amatissima sorella. 8 giugno 1839. Mi sono sforzata al massimo di sentirmi soddisfatta in questa mia nuova situazione. La campagna, la casa, i giardini sono, come già ti dissi, divini, ma ahimè, ogni giorno si fa sentire la pena di vedere ogni cosa bella tutti intorno: boschi attraenti, sentieri biancheggianti, prati verdi, un cielo azzurro inondato di sole, e non avere un momento libero e neppure libertà di pensiero per goderne. I ragazzi sono costantemente con me. In quanto a correggerli, ho subito verificato che non è nemmeno possibile pensarci. Sono liberi di fare tutto quello che vogliono. Segnalare qualche loro malefatta alla madre ha come unico risultato occhiate nemiche rivolte a me e accuse ingiuste, parziali per difendere il colpevole. Ho tentato l'impresa una sola volta e il risultato è stato tale che ho deciso di non tentare mai più. Ti dissi nella mia ultima lettera che Miss non aveva ancora fatto la mia conoscenza. Ora incomincio a rendermi conto che non ha alcuna intenzione di conoscermi. Di me non le importa nulla, all'infuori di ricavarne quanto più lavoro possibile. E a questo fine mi soffoca sotto un cumulo di roba da cucire, metri e metri di tessuto da urlare, cuffie da notte di mussolina da mettere insieme e sopra ogni altra cosa, corredi completi per le bambole. Non credo di piacerle affatto, perché non riesco a nascondere la mia timidezza in un ambiente così diverso dal nostro, attorniata da tanti visi estranei, sempre nuovi. Ero solita pensare che mi sarebbe piaciuto trovarmi nella casa di gente che appartiene all'alta società. Ecco, mi è accontentata. È un lavoro arido, guardare e ascoltare. Vedo più chiaramente di quanto l'abbia mai fatto prima che una governante non ha esistenza propria. Non è considerata come un essere umano, pensante, se non in rapporto con le fastidiose mansioni che le sono attribuite. Uno dei più piacevoli pomeriggi da me trascorsi qui, in verità l'unico, fu quando Mister uscì a passeggio con i suoi figli e a me si comandò di seguirli rimanendo alquanto indietro. Percorreva indolentemente la sua tenuta, avendo a fianco un magnifico Terranova. Era proprio l'immagine di quel che dovrebbe essere un aperto, ricchissimo gentiluomo conservatore. Parlò liberamente, senza affettazione, alla gente che incontrava e, benché lasciasse fare ai figli quel che volevano e accettasse di esserne stuzzicato in modo che a me sembrò esagerato, non avrebbe tollerato di udirli rivolgersi senza riguardo ad altri. Scritto a lapis a un'amica, luglio 1839. Non sono in grado di procurarmi inchiostro senza andare a prenderlo in salotto dove non desidero entrare. Ti avrei scritto già da molto tempo, dandoti tutti i particolari dell'ambiente assolutamente nuovo in cui sono stata immessa, se non avessi aspettato di giorno in giorno di ricevere una lettera tua, meravigliandomi e lamentando il tuo silenzio, poiché, come ricorderai, toccava a te rispondere. Non voglio importunarti troppo col raccontare delle mie pene, delle quali temo tu abbia già sentito una relazione esagerata. Ah, oh, se tu fossi qui vicino a me. Forse mi lascerei tentare dal dirti ogni cosa, abbandonandomi all'egoismo, e darei la stura al lungo elenco delle prove e delle croci che formano il tessuto della vita di una governante alle prime armi. Così, come stanno le cose, ti chiederò solamente di immaginare la miserabile condizione di una sciagurata piena di riserbo quale io sono, gettata di colpo nel bel mezzo di una famiglia i cui membri sono orgogliosi come pavoni e straricchi, in un periodo in cui erano particolarmente festosi, con la casa piena di ospiti, tutti estranei, gente di cui non avevo mai visto il viso prima di allora. In queste condizioni mi fu affidato un gruppo di bambini vezzeggiati, viziati, turbolenti, e ci si aspettava che, pur istruendoli, li avrei divertiti continuamente. Ben presto dovetti constatare che la costante richiesta imposta alla mia riserva di spirito lo riduceva al più basso livello possibile. In certi momenti mi sentivo, e immagino che lo sembravo, completamente depressa. Con mio sbalordimento fui rimproverata da Mrs. con una severità di modi e una durezza di linguaggio difficilmente concepibili, come una sciocca Piansi amarissimamente, non mi seppi trattenere. La resistenza nervosa mi venne meno. Pensavo di aver fatto del mio meglio, con tutta la volontà ero tesa a compiacerla, e mi sembrò troppo ingiusto essere trattata a quel modo solamente perché ero timida e a volte malinconica. Ma dopo una breve riflessione, risolsi di chiamare a raccolta quanta energia vi era in me e far fronte alla burrasca. Mi dissi: non mi sono mai allontanata da un posto senza essermi fatta un'amica. L'avversità è una buona scuola, i poveri nascono per faticare e i dipendenti per sopportare. Mi confermai nella risoluzione di essere paziente, di tenere a freno il sentimento, di prendere le cose come venivano. La prova, pensai, non sarebbe durata per molte settimane e confidai che mi avrebbe fatto bene. Ricordai la favola del salice e della quercia. Mi sono piegata quietamente e confido che il temporale passi al di sopra del mio capo. Mrs. è generalmente considerata una persona piacevole e lo è, non ne dubito, in società. La sua salute è salda, ha i nervi in buono stato, perciò in compagnia è gaia e animata, ma oh, può forse questo compensare l'assenza di qualsiasi sentimento bello e buono, di qualsiasi tendenza gentile e delicata? Da un certo punto di vista ora si comporta nei miei riguardi più educatamente di quanto non abbia fatto da principio. I bambini sono un po' più facili da tenere a freno, ma lei non conosce il mio carattere e non prova alcun desiderio di conoscerlo. Non ho mai fatto 5 minuti di conversazione con lei da quando sono arrivata, se non la volta che mi ha rimproverata. Non desidero essere compianta, se non da te, a voce potrei dirti molto di più. A Emily, circa nello stesso periodo, scriveva: amore mio bello, non posso dire quanto sia stata lieta di ricevere la tua lettera. È un vero, genuino piacere sentire le notizie da casa. Un qualche cosa da tenere in serbo fino al momento di andare a letto, così da deliziarsene quando si gode di un po' di quiete e di riposo. Scrivimi ogni volta che ti è possibile. Mi piacerebbe essere a casa, mi piacerebbe lavorare in un opificio, mi piacerebbe godere di un minimo di libertà mentale, mi piacerebbe che mi fosse tolto dalle spalle il peso della costrizione. Le vacanze verranno. Coraggio! Il suo impegno temporaneo in quella poco congeniale famiglia prese fine nel luglio di quello stesso anno, non prima che la costante tensione fisica ne avesse nuovamente compromessa la salute. La sua delicatezza si manifestò con palpitazioni e con difficoltà di respiro, e questi sintomi furono considerati come affettazione da parte sua, pura indisposizione immaginaria che si poteva correggere con una buona strapazzata. Era stata educata a una scuola spartana e seppe sopportare molte pene e accantonare in silenzio molte speranze. Dopo circa una settimana dal ritorno a casa, le fu proposto di accompagnare la sua amica in una breve escursione che aveva come unico obiettivo il loro divertimento. A tutta prima accettò l'idea con slancio, poi quasi perse la speranza a causa di ripetuti rinvii. Finalmente il progetto si realizzò e fu questa una delle poche bolle di sapone che non scoppiò fra le tante che le danzarono davanti agli occhi e si dissolsero nel nulla, nella sua breve carriera di cui fu la severa realtà, non il piacere, a determinare gli avvenimenti importanti. 26 luglio 1839. La tua proposta mi ha fatto perdere le staffe. Se non capisci questo elegante modo di dire, ricorda di chiedermene la spiegazione la prossima volta che ci incontreremo. Il fatto sta che un viaggetto con te, dove che sia a Cleethorpes o in Canada, proprio noi due sole, sarebbe per me una troppo grande delizia. Davvero, mi piacerebbe accompagnarti, ma non posso tenere più di una settimana di permesso e temo che questo non faccia a tuo caso. Dovrò dunque rinunciarvi senz'altro. Oh, mi sembra di non averne la forza. Non mi si era mai presentata l'opportunità di un simile piacere. Desidero talmente vederti e parlare con te, stare con te. Quando vuoi partire? Possiamo incontrarci a Leeds, prendere un calesse da Haworth fino a B. Aumenterebbe di molto la spesa e si dà il caso che io mi trovi in acque molto basse. Oh, i ricchi hanno molti piaceri a portata di mano che a noi vengono negati. In ogni modo, niente lamenti. Fammi sapere quando fai conto di partire e io sarò in grado di dirti con certezza se ti potrò accompagnare o no. Devo farlo, voglio farlo, ci ho messo il cuore, mi ostinerò e vincerò ogni opposizione. PS. Da quando ho scritto quanto sopra, ho scoperto che la zia e papà hanno deciso di andare a Liverpool per una quindicina di giorni, conducendoci tutti con sé. Tuttavia chiedono che io rinunci al progetto di Cleethorpes. Cedo con riluttanza. Immagino che fu verso quel tempo che Mr. Bronte, sia perché la salute gli veniva meno, sia perché la popolazione della parrocchia era aumentata, trovò opportuno garantirsi l'aiuto di un curato. In ogni modo, è in una lettera scritta in quella stessa estate che viene menzionato il primo curato di tutta una serie che da quel momento in poi ruotò intorno alla canonica di Haworth, lasciando nella mente di una delle sue abitatrici l'impressione di cui ella seppe molto bene far uso. Quel primo curato attirò a Haworth gli ecclesiastici del luogo, suoi amici e anche quelli delle vicinanze. Per un certo tempo, l'invasione della canonica da parte di costoro all'ora del tè diede luogo a svariati casi, grazie ai quali la monotona quiete che regnava in quel luogo fu increspata, a volte piacevolmente, a volte no. Il caso narrato alla fine della lettera che fa seguito è insolito nella vita della maggior parte delle donne e testimonia lo strano potere di attrazione posseduto da Charlotte, quando, benché non fosse molto bella, nella felice libertà di casa sua si lasciava andare. 4 agosto 1839. Il viaggio a Liverpool è ancora oggetto di un gran parlare. Ma sia detto tra noi, penso che sia dubbio che esca da questa fase e prenda contorni più decisi. La zia, come tante altre persone della sua età, gode nel parlare di cose di questo genere, ma quando giunge il momento di attuarle, poi è solita tirarsi indietro. Stando così le cose, penso che noi due faremmo meglio a tenerci al nostro progetto primitivo, andandocene da qualche parte, indipendentemente dagli altri. Mi hanno dato il permesso di accompagnarti per una settimana, al massimo per 15 giorni, non di più. Dove desideri andare? Da quanto dice M, penso che Burlington sarebbe un posto buono quanto un altro. Quando ti metti in viaggio, combina ogni cosa come meglio ti fa comodo, io non farò alcuna obiezione. Il pensiero di vedere il mare, di trovarmici vicina, osservarne i cambiamenti dal sorgere del sole al meriggio, al tramonto e poi al chiaro di luna, calmo o forse sollevato in tempesta, mi appaga e soddisfa. Nulla mi potrà scontentare. Per di più, non mi troverò parte di un gruppo con cui non ho nulla in comune, che comporterebbe inconvenienti e seccature. Oh, sarò invece con te, a cui voglio bene, che conosco e che mi conosci. Ho uno strano episodio da riferirti. Preparati a ridere di cuore. Alcuni giorni fa è venuto a passare la giornata da noi, Mister, un vicario che ha condotto con sé il proprio curato. Quest'ultimo signore, di nome Mister B, è un giovane ecclesiastico irlandese uscito di fresco dall'Università di Dublino. Vedeva tutti noi per la prima volta. Tuttavia, fedele ai modi dei suoi concittadini, si mise presto di buona volontà a dar prova di sé nella conversazione. Spiritoso, vivace, ardente, intelligente per soprammercato, ma privo della dignità e della discrezione propria dell'inglese. A casa, lo sai, parlo con disinvoltura, non sono mai timida, non sono mai appesantita e oppressa da quella falsa vergogna che mi tormenta e mi opprime quando mi trovo altrove. Perciò conversai con l'irlandese e risi alle sue freddure. E benché i difetti di quel temperamento mi fossero evidenti, lo scusai a motivo del divertimento che la sua originalità ci procurava. Mi raffreddai un po' e feci mostra di un certo riserbo durante l'ultima parte della serata perché egli incominciò a condire la sua conversazione con sottolineature lusinghiere di un tipo che non gradii molto. Poi se ne andarono e non pensammo più a loro, ma pochi giorni dopo ricevetti una lettera che a prima vista mi lasciò perplessa, visto che l'indirizzo era tracciato in una scrittura che mi riusciva nuova. Evidentemente non era né la tua né quella di Mary, che siete le mie uniche corrispondenti. Avendola aperta e letta, si rivelò essere una dichiarazione d'amore unita a una proposta di matrimonio formulata nel sapido, ardente linguaggio del giovane irlandese. Spero che tu rida di cuore. Non sembra un'avventura delle mie solite, vero? Sarebbe più adatta a Marta. Sono certamente destinata a rimanere zitella. Non importa, fin dai 12 anni ho accettato questo destino. Bene, pensai, avevo sentito parlare di amore a prima vista, ma questo caso li vince tutti. Lascio a te supporre quale sia stata la mia risposta, convinta che non sarai tanto ingiusta nei miei confronti da sbagliarti. Il 14 aprile ancora scrive da Haworth: ho fatto invano il baule e preparato ogni cosa per il nostro viaggio, ma si dà il caso che non mi sia possibile trovare un mezzo di trasporto né per questa settimana né per la prossima. Oh, l'unico calesse d'affitto in Haworth è impegnato a Harrogate. È destinato a restarvi, a quanto sento dire. Papà si oppone decisamente che io prenda la diligenza o che mi rechi a piedi a B, benché sia sicura che ce la farei. La zia protesta per il tempo e per le condizioni delle strade e per i quattro venti del cielo. E così sono in trappola. E quel che è peggio, ci sei anche tu. Ah. Nel rileggere per la terza o quarta volta la tua lettera, che a proposito è stata scritta con tali geroglifici che alla prima affrettata scorsa quasi non potei capire due parole consecutive, vedo che dichiari che se rimando il viaggio fino a martedì non sarò più in tempo. Ah, sono desolata di averti cagionato tanti inconvenienti, ma non voglio accennare sia a venerdì che a sabato, perché tutto mi fa pensare che ormai siano poche le probabilità che riesca a venire. I vecchi di casa non hanno mai visto il progetto di buon occhio ed ora che gli impedimenti sembrano germogliare a ogni passo, la loro ostilità si rafforza. Papà in verità mi accontenterebbe volentieri, ma questa stessa sua bontà mi fa esitare a chiedergli del denaro e così, anche essendomi possibile avere la meglio sulla scontenta zia, mi do per vinta dinanzi all'indulgenza di papà. Lui non lo dice, ma io so che preferisce che non mi allontani da casa, ne sono certa. Ma mi indispone il fatto che non abbia espresso chiaramente la sua disapprovazione fino al momento in cui tutto è stato deciso tra noi due. Dunque non contare su di me, lasciami fuori dai tuoi piani. Forse fin da principio avrei dovuto chiudere gli occhi alla prospettiva di un così grande piacere e negarmene la speranza stessa. Sii pure in collera con me per averti illusa. Non avevo l'intenzione di farlo e posso aggiungere una sola cosa. Se non parti immediatamente per il mare, vuoi venire a trovarci a Haworth? Questo invito non è soltanto mio, ma anche di papà e della zia. Ma la rinuncia non fu definitiva. Dopo un ulteriore breve ritardo, poté godere della gita agognata. Insieme all'amica si recò a Easton verso la fine di settembre. Vi si trattenne una quindicina di giorni, fece la conoscenza del mare. 24 ottobre. Hai dimenticato il mare e la sua immagine è andata appannandosi nella tua memoria, o riesci ancora a vederlo scuro, azzurro e verde, biancheggiante di spuma? Lo odi muggire cupamente quando il vento è forte o frusciare mollemente quando il tempo è calmo? Io sto quanto meglio non si può e sono molto ingrassata. Penso spessissimo al degno Mr. H, alla sua aiutante dal cuore gentile, alle piacevoli passeggiate nel bosco di H, a Boynton e alle nostre gaie serate, ai nostri giochi sbrigliati col piccolo Hanchon, eccetera. Se ambedue vivremo questa parentesi della nostra vita, sarà a lungo il tema di tante piacevoli rimembranze. Nella tua lettera, Mister H, ti sei ricordata di fare menzione dei miei occhiali? Ne sento tristemente la mancanza. Non posso né leggere né scrivere né disegnare normalmente senza di essi. Spero che Madame non rifiuti di consegnarli. Scusa la brevità di questa lettera. Ho disegnato tutto il giorno e ho gli occhi così stanchi che lo scrivere è una vera fatica. Ma mentre le vivide reminiscenze di quei giorni lieti andavano affievolendosi a poco, si produsse un incidente tale da far sì che gli immediati impegni domestici premessero assai pesantemente per un certo tempo. 21 dicembre 1839. In questi giorni siamo e lo siamo state durante lo scorso mese piuttosto indaffarate, perché durante tutto questo tempo ci è mancata la persona di servizio, se non si vuol contare una ragazzina che fa le commissioni. La povera Tabby è diventata così zoppa che alla fine è stata costretta a lasciarci. Ora risiede con la sorella in una casetta di sua proprietà che comprò con le economie da lei fatte 1 o 2 anni fa. È sistemata comodamente, non le manca nulla e siccome è vicina la vediamo assai spesso. Nel frattempo Emily ed io abbiamo il nostro da fare, come puoi immaginare. Io provvedo alla stiratura e tengo in ordine le stanze, Emily pensa a fare il pane e la cucina. Siamo animali così strani che preferiamo questa combinazione all'avere un viso nuovo in mezzo a noi. Inoltre non disperiamo di vedere ritornare Tabby, che non deve essere soppiantata da un'estranea qualsiasi durante la sua assenza. Ho suscitato la viva ira della zia strinando la biancheria la prima volta che tentai di stirare. Ora me la cavo meglio. I sentimenti umani sono strane cose. Sono più contenta caricando la stufa, rifacendo i letti e spazzando il pavimento a casa mia di quanto lo sarei facendo la vita della gran signora in qualsiasi altro luogo. Devo interrompere il mio contributo alla beneficenza perché mi manca il denaro per continuarlo. Avrei dovuto metterti a parte di questo prima d'ora, ma mi ero completamente dimenticata l'impegno preso. Ho deciso di costringermi ad accettare un nuovo impiego appena ne troverò uno, benché odi e aborra il solo pensiero di tornare a essere una governante. Ma devo farlo, e perciò desidero di cuore avere notizie di qualche famiglia a cui ne occorra una.